La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. L'articolo 84 riguarda i requisiti di eleggibilità Presidente della Repubblica. Per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna essere cittadini italiani, aver compiuto 50 anni d'età e godere dei diritti civili e politici. Ovviamente il Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e il suo assegno e la sua dotazione sono determinati per legge. In Assemblea Costituente si discusse lungamente sui requisiti del Presidente della Repubblica. Si scelse ovviamente un qualsiasi cittadino, perché basta ed è necessaria la cittadinanza italiana. Si discusse sul requisito di età. Noi sappiamo che abbiamo in Costituzione una scalettatura di età prevista per le diverse cariche. Per essere eletto deputato 25 anni, per essere eletto senatore 40 anni, per il Presidente della Repubblica si è scelta un'età ancora più alta, 50 anni, in maniera da rivedere in questa figura un soggetto che abbia già una significativa esperienza istituzionale e quindi possa reggere i diversi freni e contrappesi della Repubblica. Inoltre è previsto il godimento dei diritti civili e politici. In Assemblea Costituente il dibattito si concentrò soprattutto sulla possibilità di escludere dall'elezione a Presidente della Repubblica gli appartenenti a famiglie già regnanti, per voler escludere che i discendenti di Casa Savoia potessero diventare Presidente della Repubblica. Sarebbe stato veramente un paradosso che, esclusa la monarchia, comunque un cittadino italiano appartenente alla famiglia regnante diventasse Presidente della Repubblica. Il punto non è stato affrontato nell'articolo 84, ma invece è stato affrontato nelle disposizioni transitorie e finali, dove si specifica che ai discendenti maschi di Casa Savoia è precluso il diritto di voto, la permanenza sul territorio dello Stato e quindi anche la possibilità di essere eletti alla suprema carica dello Stato.